Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Caro libri, blitz notturno e striscioni innanzi ad alcuni istituti scolastici della città di Agrigento. Docenti, studenti, messerdine e clienti! Quest'anno 700 euro tutte e tre mi costano. E le nuove edizioni dei testi che magari hanno semplicemente una copertina diversa e poi il contenuto è sempre lo stesso dell'anno prima. Alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico, un'altra stangata. Docenti, studenti, messerdine e clienti! Più 36,7% sono dei punti arcaici, dei punti già noti in tutte le carriere scolastiche, anche di chi oggi abbia 50 anni, il problema dei libri scolastici. Questo è il momento in cui le famiglie affrontano la spesa dei libri scolastici. Di solito accade così, viene preso il ragazzo, la ragazza recalcitrante, riluttante, dice prendi i libri, portali al mercatino usato, vediamo se riesce a venderne qualcuno e a trovarne qualcuno usato. Così si spera di risparmiare qualcosa, anche perché quest'anno sembra che la spesa dei libri scolastici si è aumentata in media di 80 euro per famiglia, soltanto i libri scolastici. Il ragazzo va, poi torna sconsolato, si riporta dietro il pacco di libri che aveva portato via da casa, dice guarda non me li prendono, non li vuole nessuno perché sono cambiati rispetto all'anno scorso, è cambiata la copertina, è cambiata l'impaginazione, insomma non valgono più niente, quei libri sono soltanto buoni per fare carta da macero. E uno si pone una domanda a questo punto, anche guardando poi a distanza di qualche settimana lo stesso ragazzo uscire ogni mattina da casa per andare al liceo, al ginnasio, alle scuole medie con uno zaino sulle spalle che sembra Atlante con il peso del mondo sulle spalle. Dice, ma perché mio figlio deve portarsi 20 kg a scuola di libri, dizionari, tutti i giorni, quando poi quando torna a casa tira fuori il suo tablet e il resto della sua giornata le passa online, quando ormai per lui è normale guardarsi film su YouTube, scaricarsi i libri, i testi, tutto ciò che a lui interessa dalla rete. Perché questo stesso tipo di lavoro non può farlo a scuola? Anche perché eravamo in parte stati confortati da una notizia all'inizio del 2012, c'era stata una circolare del Ministero dell'Università e Ricerca che dava obbligatorio che i testi scolastici avessero comunque una loro versione online. E dov'è finita questa versione online? Che fine ha fatto? Perché non si può nelle scuole andare invece con uno zaino pieno di libri, con un tablet, con i book reader e guardarsi i libri in formato elettronico? Non sa che il problema sarà proprio degli insegnanti che hanno dei grossi problemi. Questa mattina mi fa ridere che debuttava nelle scuole romane il registro elettronico. Gli insegnanti, i presidi dicono sì, il registro elettronico, dobbiamo mettere i voti in elettronico, non abbiamo i computer per mettere i voti. E poi qualcuno ha detto anche dovete farci un corso di formazione. Ma se sei un preside, sei un insegnante e tu insegni, ti serve un corso di formazione semplicemente per aprire una form, immagine e mettere dei voti dentro. Se non sai fare questo, come se tu non sapessi guidare l'automobile, se non sapessi leggere e scrivere, ormai fa parte di un mondo arcaico. Siamo così antiquati, noi che siamo il paese all'avanguardia nel mondo per il numero di smartphone, di tablet che abbiamo ognuno di noi a testa, ne abbiamo più di uno a testa ormai, ogni italiano in teoria ha il suo tablet e il suo smartphone, ogni italiano ha non so quante possibilità di accesso in Facebook, anche in questo abbiamo un primato, siamo i più social comunicanti del mondo, siamo i più dotati di gadget elettronici del mondo, ma quando andiamo a scuola, chissà perché, ci portiamo lo zaino di libri molto più di quello che facevano i nostri nonni. 800 24 00 24. Eh sì, avevo sentito dire ultimamente col nuovo governo tecnico che c'è stata una nuova, si pensa a un nuovo modo di studiare. Sei d'accordo con questa scelta oppure no? Preferisci il cartaceo? Io sinceramente preferisco il cartaceo. Per quale motivo? Perché il cartaceo ti permette di magari sottolineare, ti permette di ridurre i concetti o magari, che ne so, è anche il gusto anche di studiare, sfogliare le pagine, se è difficile studiare sul digitale. In parte, cioè perché da una parte è meglio perché magari abbiamo visto che in parte esistono delle normali reticenze, un passaggio epocale di cultura, è chiaro, ancora esiste questa sorta di attaccamento fisico al libro tradizionale, è giusto che sia così, ma volevo metterla questione dei prezzi. Quanto costerebbe meno avere un libro in formato elettronico? Esiste questo doppio peso, un peso fisico da portarsi sulle spalle, questa continua transumanza di libri, vocabolari, fra classe, casa, classe, casa, classe, casa. E poi anche dal punto di vista economico costerebbe veramente molto meno. Sarebbe un sollievo per le famiglie. In questa direzione si sta muovendo il Codacons. Avvocato Carlo Renzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, voi vi state muovendo, mi sembra di capire, innanzitutto qual è il punto di vista rispetto a questa idea della circolare che prescriveva la copia elettronica dei libri scolastici. Come mai ancora, io, nella mia esperienza personale, non ho visto traccia nelle librerie? Sono sempre gli stessi libri, magari c'è un CD dentro e costano ancora di più. Dunque, le leggi in Italia che non sono attuate sono, credo, intorno a 1 milione, quindi non si deve meravigliare, mi dispiace questo tono di meraviglia. Il problema però, ecco, io devo dire la verità, non sono per il passaggio totale all'informatica. Ma almeno una possibilità di scelta, chi si sente pronto possa farlo. Voglio dire, è imbarazzante il dilemma, perché è chiaro che i prezzi con l'informatica, e noi facciamo la battaglia perché vengano messi su internet i testi il più possibile, e andiamo contro, siamo stati denunciati pure dagli editori, contro ovviamente chi vuole la tutela del diritto d'autore, che poi li si copiano, eccetera, eccetera. Però d'altra parte anche rinunciare alla penna, alla carta, non dico al calamaio perché non voglio arrivare tanto, e alla sottolineatura, come diceva quel ragazzo del libro, è una cosa su cui riflettere, voglio dire, anche da un punto di vista educativo, sociale. E ma almeno dare la scelta, avvocato. Dare la scelta, questo sì. Ecco, sicuramente bisogna andare verso questa strada. Non dimentichiamo però, questo è un dato scientifico, che sopra i 55 anni oggi solo il 20% è in grado di usare internet. Pensi un po' a che livello stiamo. Allora, non possiamo certo tagliare fuori dalla scuola tutti quelli che hanno più di 55 anni. È vero che sarebbe una festa. Quindi è un problema di classe di insegnanti che non vogliono fare il passo in un territorio per loro sconosciuto. Certo, quindi chiedono l'aggiornamento, ma insomma preferirebbero non doverlo fare e così via. Quindi c'è tutta questa problematica. Ma ragazzi, le pare possibile che il paese rimanga così indietro perché gli insegnanti non sono aggiornati? No, questa non è una cosa buona, ma allora bisogna aggiornarli o bisogna farli andare in pensione soddisfatti e assumere i giovani. Invece i giovani adesso, per esempio, sono stati esclusi tutti dal concorso che uscirà il 24 settembre, cioè tutti i non abilitati, per i quali noi stiamo organizzando un ricorso al TAR, sono esclusi dalla possibilità di insegnare. Torniamo un attimo, tutti i giovani. Torniamo un attimo ai libri, perché questo è il punto oggi. Sì. Come mai il libro scolastico, questo è un problema che c'era ai tempi miei del liceo, parlo degli anni 70, anche prima forse, come mai il libro usato è praticamente un feticcio inusabile? Io vedo, a Roma sono dislocati in varie parti della città i rivenditori di libri usati, ma è sempre più difficile piazzare un libro usato perché c'è sempre questo sistema furbetto di cambiare qualcosa, insomma, di rendere invendibile il testo usato. Allora qui c'è la complicità dei docenti e c'è la truffa degli editori. Noi adesso chiederemo di segnalarci i testi dove sono cambiate soltanto poche pagine. Quei testi e quegli editori noi li denunceremo per truffa, perché assolutamente è scorretto fare questo gioco che impedisce il commercio del libro usato. Ed è un gioco che è fatto da chi trae profitto da questa cosa. Però Renzi, è un gioco antico. Io, guardi, ho 58 anni. Mi ricordo che ai miei tempi ancora ci arrabbiavamo perché cambiava l'impaginazione, un frontespizio, e il libro non era inutilizzabile. Perché logicamente la persona che fa quella piccola attività di compravendita di libri usati non lo prende, dice guarda, questa edizione non va più. Io ho visto buttare libri nuovi di mio figlio, mi dispiace, ma cosa ci fai più lì con un libro scolastico? Ti riempie soltanto gli armadi inutilmente, puoi solo metterlo al macero. Ma questo dipende dagli insegnanti, perché se i docenti insieme con gli studenti, con le famiglie, dicessero noi facciamo disobbedienza civile e vi chiediamo di portare il testo dell'anno scorso, quindi prendetelo pure usato e lo accettiamo perché due pagine di differenza non ci fanno proprio un baffo, non sarebbe in queste condizioni. Ma cosa gliene viene agli insegnanti di stare a questo gioco? Che gliene viene? Cosa gliene viene agli informatori farmaceutici di andare a propagandare dei medici un farmaco? li mandano in vacanza, gli regalano i libri. Gli regalano i libri. I rappresentanti di editori che vanno dagli insegnanti regalano copie di libri, vocabolari, dizionari, saggi, eccetera, eccetera. E il mondo va così. In medicina si chiama comparaggio. Nei libri non lo so come. Ma ancora non esistono sentenze di comparaggio in campo scolastico? Assolutamente, non esistono sentenze di comparaggio perché non è comprovabile, perché viene fatto naturalmente tutto in modo così, diciamo, omaggio. Sì, anche perché il libro, uno non può andare a casa l'insegnante, è logico che abbia biblioteche piene di libri, non è che gli può chiedere come mai hai questi libri, come mai? Me li hanno regalati. Allora, sentiamo un attimo Simone. Simone? Sì, pronto, buongiorno Nicoletti. Un insegnante. Io sono un insegnante magari avvantaggiato dalla giovane età, ho 32 anni. Io Ma lei è stato mai messo in tentazione di comparaggiare, cioè di avere libri in cambio dell'applicazione di testi con lievi modifiche ai danni dello studente? Io proprio, se potessi, rinuncerei totalmente ai libri, cosa che spesso faccio con i miei studenti, purtroppo però sono obbligati a comprarli, quindi in collaborazione con le famiglie spesso evito di far portare i libri agli studenti, a meno che non siano strettamente necessari. C'è effettivamente un silente accordo che non porta da nessuna parte, se non far rimanere le cose ferme e inamovibili, tra la scuola, i genitori, gli insegnanti, gli editori, per far sì che le cose non possano cambiare. C'è una legge, ad esempio, che non impedisce di cambiare un testo se non sono passati almeno 5 anni, anche nel caso in cui il testo sia, ad esempio, spaventosamente pieno di errori, come capita negli ultimi anni, perché negli ultimi anni gli editori pensano, ai libri di latino pieni di versioni. Cosa fanno? Fanno un copia e incolla delle versioni che trovano in internet, le mettono nei testi e sono versioni spesso sbagliatissime, tagliate, incollate. Anche per me, diciamocelo chiaro, Simone, lei lo saprà meglio di me, le versioni che sono nei libri sono tutte rintracciabili con traduzione poi fatta con i piedi in internet, non c'ha nemmeno più senso. Ma non c'è uno studente che faccia una versione in Italia per casa, lo sappiamo tutti e facciamo a volte finta di non sì, io mio figlio gli stiamo con il fucile puntato, perché è chiaro che la tentazione è di andarsela a scaricare in rete, ma lo fanno tutti i miei compagni. Ma lo fanno pure per i temi. Quante volte io correggo dei temi che poi scopro essere scritti magari da Michele Serra o da altri e gli studenti manco fanno lo sforzo di cambiare leggermente la sintassi. Ecco, poi però si accorgono che esiste magari il diritto d'autore, si accorgono che l'insegnante, se non è proprio del tutto rincoglionito, è in grado di fare un semplice controllo inserendo una frase in Google. Ecco, siccome ci diceva prima l'avvocato Rienzi, ma come sappiamo per nostra esperienza, il problema è che insegnanti di scuole romanico, dateci un corso di formazione per inserire i voti nel registro elettronico. Come dire, insegnateci a giocare a bocce al dopo lavoro, emblematico. Io ho ottenuto come docente un corso di formazione per i miei colleghi per insegnarli a usare le LIM, che sono queste nuove lavagne multimediali, bellissime e utilissime, e ha avuto effettivamente molto successo. Il problema è che poi magari le LIM non ci sono dentro le scuole, ce ne sono due in tutta la scuola che gli insegnanti devono combattere. Sì, ma anche in questo, mi scusi Simone, approfitto di lei che è un giovane insegnante, un insegnante 32 anni è già una rarità e ci fa molto piacere ad ascoltarlo, ma invece che spendere tanti soldi in grandi, una mia domanda stupidissima e poi mi risponda, dica una domanda stupida, in mega lavagne elettroniche, c'è stato un progetto che ha investito persone, investimenti, ma non è sufficiente prendere un semplice tablet con un proiettore che costa molto meno e proiettarla e lavorare sul tablet? Ognuno potrebbe avere la sua lavagna elettronica. Sì, o attaccarlo a un televisore, oggi diciamo con l'AirPlay si può attaccare un qualsiasi tablet, vederlo in un televisore, uno mette un televisore in classe, lo collega al tablet. Guardi, effettivamente per la dimensione delle aule scolastiche una lavagna multimediale di quelle grandi è tutta un'altra cosa, cioè ne va in qualità, in positivo. Sì. In ogni caso io ho fatto un calcolo che sostanzialmente ogni classe potrebbe avere sia il tablet sia la lavagna se gli studenti non fossero costretti a spendere cifre assurde in libri che poi rimangono chiusi. Io penso che uno studente in prima liceo, dove io ad esempio insegno italiano e latino materie letterarie, ha solo per le mie materie una cosa come 10 o 12 libri, almeno 7 dei quali rimangono inutilizzati. Lo so benissimo, intonsi rimangono, perché nemmeno l'insegnante ha tempo di seguire questa cosa. Mi fa molto piacere, vorrei sentire una battuta dell'avvocato Rienzi su questo giovane insegnante che ha dato un aspetto lievemente diverso rispetto alla norma e alla prassi. Ma è un giovane insegnante che credo che non abbia la cattedra, perché non c'è un insegnante precario, immagino. Cioè, questi giovani sono stati espulsi dalla scuola, non vengono inseriti. Bisognerebbe svecchiare la politica, bisognerebbe svecchiare la scuola, svecchiare gli uffici pubblici, ma questo, tutto questo non avviene, per cui è chiaro che poi le belle idee come quella di questo giovane insegnante non camminano, perché non hanno gambe su camminare. Quindi solo sintetizziamo, che so che lei in macchina, la voglio riaffilare ai suoi impegni. Cosa farà il Codacons rispetto a questa iniziativa? È pronto a denunciare? Certo, noi adesso chiederemo ai genitori, ai docenti, ma soprattutto ai genitori, di fare disobbedienza civile, cioè dire noi non adottiamo il nuovo testo se è sostanzialmente uguale a quello dell'anno precedente, e denunceremo per truffa, le case editrici ci verranno segnalati. E cosa devono fare allora i genitori in grado? Ci devono scrivere al mio blog carlavietti.it dicendo questo testo mi hanno costretto a comprarlo, che è identico a quello che aveva l'altro figlio, che ne so, un amico di mia del figlio l'anno precedente. Poi faremo un ricorso al TAR contro il decreto del Ministero che ha fatto aumentare i tetti di spesa, perché ricordiamoci che c'è una legge che dice che non si potrebbe dove spendere più di X euro per classe. Si hanno risolto realtà, il problema aumentando il tetto di spesa. Questo faremo. Io intanto invito chi ci ascolta di chiamare l'800240024, già possiamo da questa mattina avere segnalazioni. Qualcuno di voi si sta rendendo conto che ha comprato libri pressoché identici a quelli dell'anno prima, è costretto a comprarli nuovi, ce lo faccia sapere, ci interessa avere il dato. Antonio Tombolini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, Antonio Tombolini, amministratore delegato di Semplicissimus, che è un'azienda che opera da anni nel settore dell'editoria digitale, offre supporto, aiuto e ogni tipo di informazione a chi vuole comunque avventurarsi in questo territorio, sembra così astruso. Non trova anche lei, Tombolini, singolare che siamo un paese altamente specializzato dal punto di vista del possesso di periferiche individuali per entrare in internet, per navigare, per social networkizzare, ma ancora ci stiamo a parlare dell'insegnante che non vuole prendere il libro elettronico perché teme poi di non essere all'altezza di saper gestire la sua attività di docente? Ma guardi, io lo trovo talmente bizzarro che non credo affatto, e credo che sia una posizione ipocrita, a tutti quelli che dicono che il problema sono gli insegnanti o gli insegnanti di una certa età. E allora qual è il problema? Necessità, eccetera. Il problema è, da un lato, quello di un cambiamento epocale, che quindi di per sé non è facile, questo bisogna dirlo, perché le problematiche sono tante. Dall'altro, però, è la resistenza, soprattutto, questo va detto, delle case editrici scolastiche, dei più grandi gruppi che si dividono sostanzialmente il 90% del mercato, che ovviamente hanno dal loro punto di vista tutto l'interesse a ritardare il più possibile un passaggio al digitale degli strumenti didattici. Questa è la realtà delle cose. Ma per loro non sarebbe un business, si abbatterebbe tutto il settore innanzitutto dell'usato, delle compravendite. Il libro lo puoi comprare solo in elettronico, lo compri solo dall'editore, con tutte le garanzie che ha un libro comprato su Amazon. Non è che poi posso darlo a un'altra persona, lo compro e lo uso io. Su questo, almeno a guardare quello che è successo in altri settori dell'editoria, che su questo sono un po' più avanti, ad esempio la narrativa, eccetera, dove gli ebook ormai sono una realtà in forte crescita, giocano diversi elementi. Il primo, l'editoria scolastica è particolare, ci sono moltissimi testi, e quelli su cui si guadagna di più, in cui l'investimento è stato già fatto, e poter venderli al prezzo del libro di carta naturalmente garantisce dei profitti enormi, perché gli investimenti fatti sono stati ammortizzati. Infatti, secondo me, non è mia materia, ma converrebbe economicamente agli editori di fare gli ebook? Qui subentra un altro problema, che è il cambiamento, e cioè il passaggio non è soltanto da uno strumento all'altro di fruizione, ma questo passaggio, come sempre accade, da un medium, la carta, a un altro, il digitale, mette in gioco alcune cose che sono ancora poco visibili ma stanno già accadendo, gli insegnanti in particolare credo ne siano avvertiti, e cioè sempre più stanno girando materiali didattici autoprodotti dagli insegnanti o dagli insegnanti e studenti insieme. Questo anche a livello di scuole di base, di scuole elementari, sono, credo sia nell'esperienza di chiunque ha dei bambini a sì, casa, sì. Il vedere quadernoni pieni di schede appiccicate, di cose che gli insegnanti elaborano da sé e così via. Beh, oddio, ci sono anche delle applicazioni, delle app molto divertenti. Esattamente, che vanno molto avanti rispetto al libro, anche ai libri elementari. Assolutamente, questa è la posta in gioco, a mio avviso, e cioè credo che la paura degli editori nel favorire una transizione al digitale dei loro materiali didattici sia anche quella di l'open source nel campo dei testi scolastici, cioè un insegnante bravo insieme a dei genitori mette a punto un sistema didattico e lo mette in rete. Non solo, ma essendoci la rete diventa anche c'è anche la possibilità di distribuirlo, cioè il self-publishing nella narrativa, che sta diventando una realtà di mercato molto consistente, a mio avviso ha delle potenzialità enormi anche nella didattica a questo punto. Sentiamo un secondo Paola Tombolini, sentiamo se poi lei rimanga in ascolto. Paola, buongiorno, insegnante di informatica. Sì. Dove insegna lei, Paola? Come? Dove insegna lei, Paola? Che io tipo sono di scuola? Precaria, nonostante non sia una giovincella, quindi quanti anni ha Paola? Quanti anni ha Paola? 50. 50, precaria cinquantenne. Insegna informatica? Io volevo segnalare. In che tipo di scuola? In che tipo di scuola insegna informatica? Istituti tecnici principalmente, o anche istituti professionali. Pronto? Sì, sì, no, qual è il tipo, diciamo, di esperienza rispetto a quello che stiamo dicendo? Lei dovrebbe essere in un settore privilegiato rispetto al problema che stiamo esponendo, non dovrebbe avere questo problema. Sì, in effetti gli insegnanti di informatica si stanno più o meno organizzando proprio per generare loro dei libri online, sia perché i libri di informatica generalmente non sono fatti molto bene, sia perché di solito l'informatica è una materia così vasta che spesso l'insegnante preferisce dedicarsi alle sue specifiche. Quindi il timore che in qualche maniera annunciava Antonio Tombolini degli editori, lei me lo conferma. Andando avanti, partendo dire, da voi, lo faranno un po' tutti. Ma non lo so, perché come diceva un altro signore prima, molti insegnanti sono molto indietro dal punto di vista informatico e sono molto resti ad imparare. Quindi figuriamoci se loro riescono a scaricarsi una piccola applicazione per creare un ebook autonomamente, figuriamoci. Infatti, anche perché effettivamente dovrebbero autoaggiornarsi a loro spese, per cui è difficile che facciano questo. Ad ogni modo, io volevo dire che ad aprile, quando ho dovuto fare la scelta dei libri per l'anno prossimo, obbligata, come diceva qualcun altro, a scegliere dei libri nonostante io non vorrei farlo, ho scoperto per la prima volta che i libri elettronici, che pure siamo obbligati a prendere almeno in forma parzialmente elettronica, magari con gli esercizi online. Il che è un po' una presa in giro, diciamo la verità. Perché sì, infatti. È una forma ibrida del tutto, perché uno deve andare nel sito, registrarsi, trovare degli esercizietti e farli online, che non c'ha nessun senso. Sì, magari sarebbero più leggeri il vantaggio. Boh. Ad ogni modo, anche quelli in forma completamente elettronica costano solamente il 30% in meno di quelli in forma cartacea. Io ho chiesto il perché al rappresentante e mi ha detto che l'IVA sui libri elettronici è molto più alta che quella sui libri in forma cartacea, e quindi il prezzo non è che scende. Mi sembra tanto. Che sia 5 volte di più, qualcosa del genere, perché sì. Va dal 4 al 20, mi sembra una cosa del genere. Poi adesso ce lo confermerà Tombolini. Meglio con i libri digitali, almeno è tecnologia, si evolve la scuola italiana che è la più bassa, penso. Tocca a te, mi sono fatto un'intervista io, tocca a te. Senti, mi passi le risposte. I formati digitali dei libri? Potrebbe essere una cosa positiva, magari con l'aiuto di internet si può studiare meglio. Secondo me è più. Si può essere più concentrati forse che su un libro. Ad esempio, io mi trovo più. Meglio a studiare su internet che su un libro. 800 24 00 24, alcune voci degli studenti presi da YouTube che commentano a modo loro. ancora non hanno l'esatta cognizione che quello che per loro lo strumento di evasione, lo strumento di gioco, lo strumento visto ancora con circosprezione, con un senso di distanza. Mi scrive un ascoltatore su un SMS: attenzione, svegliati Nicoletti, uno studente con un supporto elettronico a scuola farebbe tutto tranne studiare, tipo Facebook e porno. Ancora pensare che un ragazzo che ha tutto il giorno a disposizione comunque possibilità di accedere in rete, se ha uno strumento di accesso in rete in orario scolastico, vada a giocare con Facebook a guardarsi le cose porno. Non credo che sia esattamente questo il problema. C'è da osservare però una visione, secondo me, mediata di questo problema. Do per buono il fatto che non tutta l'editoria scolastica possa essere trasferita in elettronico, che uno studente di liceo non possa passare tutte le sue ore di studio solamente davanti a un supporto elettronico. Proprio bisognerebbe capire qual è il giusto mezzo tra libri inutili, vengono continuamente ristampati, dove c'è soltanto dietro la necessità di profitto, di vendere libri sempre nuovi, in una sorta di scellerato patto tra chi li consiglia, chi li produce e chi li mette in vendita, e l'estremismo più assoluto, abolire tutta la carta. Nessuno dice di abolire qualsiasi supporto cartaceo. Trovare qual è la forma migliore in questo passaggio, che già avviene in altri campi, non vedo perché non deve avvenire nella scuola, che è fondamentale. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo intervenire a proposito di quel che dicevate prima su una certa avversione da parte degli editori a passare al formato digitale, nonostante una presunta crescita dei margini di vendita su questi prodotti. E io, da quel che abbiamo visto a partire dall'inizio dello scorso decennio con la musica digitale, penso che il principale motivo sia il problema della pirateria e della violazione del diritto di copyright. Nel senso, quindi, che timore che gli studenti, uno si compri il libro, poi li pirati e li passa agli altri. Il resto della scuola se lo copia, cosa che oggi ad oggi non sono stati trovati efficaci mezzi di prevenzione contro questo problema. Mi consenta una cosa, questo problema è un problema totale che si pone l'umanità di fronte al passaggio dall'analogico al digitale. Vale per il cinema, vale per i programmi, per i telefilm, vale per la musica. Figuriamoci se per lo scolastico non ci si debba porre questo problema. Un problema. Effettivamente il libro, ora è vero, abbiamo detto che gli iBook stanno in qualche modo crescendo, ma il libro è stato forse finora l'unico formato artistico che in qualche modo si è salvato ad oggi. Però passare in modo massiccio a un formato digitale anche su questo campo avrebbe probabilmente come risultato lo stesso che c'è stato. Però nella va iniziato ad affrontare il problema, non trovo nemmeno ormai in linea con la nostra contemporaneità il fatto che ci sia una così grossa massa di volumi in senso fisico da portare lungo il tragitto casa-scuola, e ci sia un così grosso onere da parte delle famiglie continuare a acquistare libri. Infatti concordo pienamente, e parlavo solo dal punto di vista degli editori, tale che la mia proposta che mi è venuta in mente è di fare un passo in avanti e dire, visto che i professori non sono pagati solo per lavorare la mattina ma fanno più ore al giorno, in una scuola in cui magari ci sono 4-5 professori di latino, perché nel pomeriggio non farli mettere assieme e fargli preparare delle dispense che possano far utilizzare in modo digitale i propri studenti, come già d'altra parte avviene per buona parte dei professori universitari che non hanno alcun libro, ma proiettano le loro dispense che poi gli studenti possono anche stamparsi e studiare su quelle. Voglio dire, se il professore è preparato ed è un bravo professionista di una materia, perché poi la fruizione della materia a casa deve essere fatta su qualcosa scritto da terze parti e non dal professore stesso o dal gruppo di professori? O perlomeno, se non proprio il testo principale, quelle che all'università si chiamano le dispense, la sintesi, esatto, delle lezioni, se il professore porta un apporto personale di approfondimento, di studio, sì, rispetto a quello che è la disciplina. Un professore di qualsiasi disciplina, se veramente ha studiato molti anni, dovrebbe essere in grado, magari non da solo perché il lavoro è lungo, ma in un team, di ricreare quasi un libro, oppure magari delle dispense un po' più sintetiche. Fermiamoci un attimo, sentiamo a questo punto, introduciamo un'altra voce rispetto a questo quadro complesso, cerchiamo noi di comporre. Paolo Ambrosini, buongiorno. Sì, buongiorno. Paolo Ambrosini è vicepresidente dell'Associazione Librai Italiani. In questi giorni le librerie italiane sono naturalmente il luogo in cui si consuma questa sorta di rituale che più o meno è sempre uguale l'anno. Si arriva, si confronta il libro vecchio con il libro nuovo, c'è una lunga lista di attesa di chi è stato previdente che ha già ordinato i libri, chi non li ha ordinati aspetta, inizierà la scuola tra poco e c'è questo momento di scompenso. Qual è il vostro punto di vista rispetto al problema che stiamo ponendo? Ma è evidente che le famiglie in questo momento stanno cercando di risparmiare perché oggettivamente siamo in un momento economicamente difficile e quindi la ricerca soprattutto del libro usato è diventata una sorta di caccia, per cui ci sono i clienti che passano da una libreria all'altra, da uno spazio vendita all'altra per cercare di recuperare i libri usati e quindi risparmiare su quella che è la spesa per l'istruzione dei propri figli. E noi come librerie guardiamo a questo fenomeno con favore, nel senso che le librerie stesse si sono attrezzate, hanno cercato di offrire un servizio alla propria clientela, che è un servizio soprattutto informativo, per evitare che le famiglie abbiano ad acquistare incautamente dei testi che poi dovranno andare nel corso dell'anno a recuperare nuovamente. Ma possiamo dare delle cifre in percentuale? Quanto del blocco grosso dei libri in realtà è acquistabile e usato? Mi sembrano margini molto piccoli. No, guardi, purtroppo non è possibile perché, come lei sa, bene, sì, ogni scuola ha una libertà di scelta sui testi e questo va poi ad incidere sul panel di offerta complessivo. C'è da dire appunto che negli ultimi anni questo tipo di mercato è cresciuto più sensibilmente rispetto al nuovo e che c'è maggiore attenzione da parte del consumatore verso il libro usato. In questo momento ancora c'è una forte domanda di usato rispetto al nuovo in queste ore in libreria. Quindi direi che è un fenomeno questo che ormai c'è, fa parte del mercato. Ecco, voi come vedreste invece? Proprio l'hanno un po' osteggiato questo tipo di passaggio. È chiaro che gli editori non vedono di buon occhio. Alcuni colleghi che avevano fatto questo passo di offrire il libro usato hanno avuto dei problemi con le case editrici e hanno avuto delle difficoltà. Ah, cioè gli editori dicono alla libreria non vi azzardate a mettere in vendita i libri usati. Si parla di anni fa. La nostra politica è proprio farli sempre di nuovi e apparentemente diversi. Voi invece come vedreste una, diciamo, graduale e misurato passaggio al libro elettronico, all'editoria elettronica nel campo dello scolastico? Ma evidentemente tutto quello che è elettronico ormai appartiene al nostro quotidiano e quindi pensare che possa essere ostacolato e osteggiato ci sembra di essere antistorici. Noi come librai poniamo alcuni punti, cioè noi riteniamo di essere quella catena che garantisce la professionalità nel servizio al cliente, nell'approvvigionamento e quindi non vorremmo che tutto questo passaggio venisse tagliando fuori l'operatore professionale. Vi tagliasse tutto. Quello che ci sembra di capire, di percepire in questi mesi quando si discute del libro elettronico è che in realtà l'editore se la vuole fare, se la vuole cantare, ecco. E quindi noi mettiamo questo punto perché riteniamo che la presenza di una rete distributiva qualificata e preparata sul territorio sia un valore aggiunto per la clientela, per il consumatore in primis, poi riteniamo anche timidamente, lo diciamo sommessamente, anche per gli stessi editori. E qui non vorrei dare l'impressione che oggi ho tagliato fuori gli editori. Noi abbiamo contattato l'Associazione Italiana Editori, ci hanno detto che il responsabile dello scolastico non è in Italia, quindi non poteva intervenire nessuno. Avremmo sentito volentieri anche la loro voce, siamo pronti a sentirla in ogni momento. Sentiamo Maurizio. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, Maurizio? Sì. Sì, sono Maurizio da Genova, buongiorno. Sì. Niente, io avevo chiamato per portare un'esperienza, siamo quella di mia moglie, abbiamo insegnante elementare che sono molti anni che non adotta il libro di classe ma lo costruisce durante l'anno con i suoi alunni, con i bambini, quindi ogni bambino ha, diciamo, la possibilità di mettere le proprie esperienze, le sue esperienze in questo libro che alla fine risulta composto parte da articoli che prepara mia moglie, come diceva l'ascoltatore di prima, non solo il pomeriggio ma anche la sera sta tante volte lì a compilare quelle che sono le distanze che parlano nel libro. Sì, poi su che supporto lo rende fruibile? purtroppo solo su carta, perché quindi lo ristampa su fotocopie e lo ridistribuisce con enorme difficoltà, perché poi la scuola non ha soldi per i toner, non ha soldi per la manutenzione del fotocopiatore. Beh, me l'immagino, poi stampare a colori un libro in casa non sarebbe certo. Anche non a colori, perché poi sono i bambini, ciascuno il suo libro se lo colora. Sì, siamo ancora un aspetto di bricolage scolastico, un po' artigianale. Comunque la volontà di dare un apporto mi sembra che sia palese. Vorrei sentire Antonio Tombolini a questo punto, amministratore delegato di Semplicissimus, che è un'azienda che si occupa appunto di editoria digitale. Rispetto al quadro che è stato posto questa mattina dagli insegnanti che hanno chiamato, e anche rispetto a quello che ha detto il responsabile, l'esponente della categoria dei librai, le sembra molto difficile il passaggio in avanti verso l'editoria elettronica, anche se non totale, ma almeno parziale, almeno per alcuni supporti specifici? Ma guardi, sono due aspetti su questo. Uno, a breve, questo passaggio è stato per il momento neutralizzato sostanzialmente dagli editori che si sono inventati la categoria dei libri misti, che è entrata nella normativa, perché la normativa risale al 2009 addirittura. Quindi Probinato Tombolini, che è una presa in giro inutile mettere un DVD dentro un libro. Assolutamente. Nel 2009 veniva stabilito che i libri adottabili dovevano essere comunque anche disponibili per il download, e questa era una effettiva rivoluzione, perché potevano essere adottati libri anche solo digitali, ma non più libri solo cartacei. Poi in realtà sono riusciti a cambiare la norma fino a quella attuale, per cui sono previsti libri misti, che sono veramente la presa in giro, perché il libro misto vuol dire che l'editore può prendere un pezzettino del libro di carta di sempre, trasferirlo in rete, costringere comunque a comprare il libro di carta, certo, allo stesso prezzo del libro di carta, e dire poi vai nel sito, registrati, eccetera. Ma non ci vanno mai, nessuno ha voglia. Esatto, cosa... ma anche perché non è talmente antiquato il sistema. Esatto, assolutamente. Fa ridere. Quindi secondo me è per questo che dico il cambiamento non va né visto né cercato in quella direzione. Dal mio punto di vista sono molto confortato, devo dire, dagli interventi che ho ascoltato rispetto alla mia iniziale sollecitazione, perché mi sembra di potervi leggere proprio quei segnali a cui accennavo, che di solito dicono quali sono i veri cambiamenti. Il self-publishing, la produzione, l'autoproduzione di materiali didattici, con l'avvertenza, attenzione, che manca ancora un tassello che secondo me sarà quello che potrà innescare il cambiamento vero, e cioè noi non dobbiamo pretendere che tutti gli insegnanti siano dei geni. Insegnare in fondo è un mestiere, va benissimo farlo anche se non si è un padre eterno della propria disciplina, della propria materia, in grado di produrre manuali, libri e quant'altro, ma se sicuramente c'è un'eccellenza nella classe insegnante che è in grado di produrre materiali didattici di qualità, se questi potessero circolare in rete ed essere distribuiti, ecco che allora si innescherebbe quel meccanismo attraverso cui tutta la scuola potrebbe avvalersi di materiali didattici, selezionando quelli di qualità con gli strumenti che la rete ha dimostrato di poter mettere in campo quando si tratta di filtrare grandi masse. Le posso fare un esempio, Tombolini? Poi prego. Io ho chiesto a mio figlio, l'insegnante fa una lezione, parla per un'ora, per tre quarti d'ora, noi prendiamo qualche appunto, ma torniamo a casa, dagli appunti capiamo poco. Dico, scusami, ma perché non te lo registri con il telefonino e poi te lo risenti a casa, fai un MP3 e te lo risenti? Mi dice, ma scherzi, proibitissimo, e ci espellono dalla scuola. Ma perché c'è questa chiusura? Non vedrei nulla di strano che la lezione dell'insegnante diventi un MP3 e l'insieme degli MP3 che si possono sentire con il loro riproduttore diventi una maniera di riascoltare la lezione a casa. Perché c'è questa chiusura? Cosa temono? È la paura di perdere i parametri di un mestiere che si è fatto fino ad oggi in un certo modo. Lei c'era, credo, un fenomeno che ancora in Italia non è visibile se non altro per problemi di lingua, ma che su scala globale sta avendo un successo enorme. Si chiama Khan Academy, è un signore, in questo caso va detto, geniale, americano, che ha smesso il suo lavoro e ha deciso di dedicarsi totalmente all'insegnamento, facendo cosa? Producendo mini lezioni tematiche monografiche su YouTube. Chiunque vada su YouTube e cerca Khan Academy, K-H-A-N Academy, trova le lezioni di questo signore, che sono formidabili. Ma io, se facessi l'insegnante, direi: scusate, riprendetemi ogni volta che faccio lezione, metteteli su YouTube e mi rivedete le lezioni, che vi prendete appunti, state attenti, non perdete tempo. Sentiamo Carlo, che è inglese e forse può confortarci con un esempio distante dal nostro punto di vista. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Lei sorride sentendo questa situazione, ma di questo noi su questo ci stiamo dibattendo. Non ridiamo, perché abbiamo degli amici in Italia proprio che spendono tantissimi soldi per questo libro, e ci sono due punti che mi piacerebbe fare. Da quando ero un bambino a scuola fino adesso, ogni anno, sia all'asilo, scusa, sia all'elementare e anche al liceo, il primo giorno dell'anno il prof arriva con 25 libri nel mano e lui distribuisce questi libri a tutti gli studenti. Questi sono i libri degli studenti per l'anno. Alla fine dell'anno devono darlo indietro. Se hanno spoccato o rovinato dei libri, devono pagare qualcosetta. Allora, questi libri sono della scuola, che vengono distribuiti ogni anno, vengono presi indietro ogni anno e ridato fuori nei successivi anni. E c'è niente per i genitori da pagare. E avviene ancora così in Inghilterra? Sì, vengono usati. Perché buttarlo? Allora, ovviamente il computer è diverso, ma matematica, la storia, le lingue, tutte robe così si può riusare. La seconda cosa è questo: abbiamo sentito che volete proprio andare avanti con il computer. C'è un sistema in parecchie scuole adesso in Inghilterra che, per esempio, matematica, tu vai a scuola, tu studi tua matematica e dopo tu vai a casa e c'è un sito della scuola. Tramite questo sito trovi il tuo nome. Lì puoi andare dentro al tuo nome e fai degli esercizi in più. È chiaro, c'è un'area condivisibile nel server della scuola, dove ogni studente alla sua aula virtuale può fare i suoi esercizi. Ma è semplicissimo, esatto, da un punto di vista informatico. Certo. Sì, e i prof vanno lì dentro nel sito della questa ragazza o questo ragazzo, lo correggi, allora il studente può aumentare il suo livello di capacità in quella materia. Carlo, non vorrei dire bestialità, ma se un insegnante avesse voglia, basterebbe aprirsi i documenti di Google, che è un sistema, ne dico uno, ma ci saranno tanti, in qualsiasi casella di posta elettronica ci sono documenti condivisibili, potrebbe farlo con la sua classe, ma questa è l'altra parte della luna.